Prova 2. Ascolterete dei brevi dialoghi. Ascolta attentamente e svolgi l'attività indicata. 1. Buonasera. Ho prenotato 2 camere singole per 3 notti. Il mio cognome è Harris. Ho già pagato con PayPal. 2. Vorrei aiutarti a tradurre questo articolo, ma oggi non ho tempo, mi dispiace. 3. Questi sono gli ingredienti per la ricetta di oggi. Uova, latte, farina, burro e zucchero. 4. Che brutto film! Pensa, ieri sera al cinema, dopo il primo tempo, mi sono addormentata. 5. Vediamoci in piazza alle 8. Il concerto inizia alle 10 e prima possiamo mangiare qualcosa insieme. 6. Mi dispiace, purtroppo devo cancellare il mio appuntamento di oggi con l'avvocato. Può fissarmi un nuovo appuntamento? 7. Domani non pioverà. Potremmo fare un picnic. Che ne pensi? Invitiamo anche Gino e Mariella? 8. Aspetti da molto tempo? Mi dispiace. Il dottore si sta occupando di un'emergenza e non so quanto tempo dovrai aspettare ancora. Vuoi fissare un nuovo appuntamento? 9. Qui il sole è molto forte. Non dimenticare di portare un cappello e una crema solare. 10. Buonasera a tutti! Grazie, grazie. Sono molto emozionata perché fra poco, su questo palco, si esibirà una band eccezionale. Signore e signori, ecco a voi...